gente è troppo tesa. Bisogna distenderla un po'. Sentite, questo è lo scontro finale. E tu, Katushiro, dovrai fare molto più di ogni altro. Stanotte sei diventato un uomo.